Mix 24 di Giovanni Minoli. Storia e musica negli anni 60 e 70. Ben trovati su Mix 24 Estate. Oggi inizia un viaggio negli anni 60, un racconto fatto di musica e storia. Il mix è condotto da Marina Milone per la storia e da Franco Schipani per la musica. Franco ha prodotto programmi televisivi storici, musicali e soprattutto ha fondato la versione italiana del Rolling Stone Magazine. E allora, ciao Franco, perché il 60 è così importante? Beh, più che dirtelo, te lo faccio ascoltare. Il tuo bacio è come un rock che ti morde col suo sì, e assai fatica al knockout che ti pulina sul ring, fa l'effetto di uno shock e perciò canto così. Oh oh oh oh oh oh. Franco. Buongiorno Marina, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Celentano Superstar nel 1960. Sì, era già una star. Sai perché? Perché lui aveva iniziato questa rottura assoluta e totale con il passato. Ma in quel momento proprio la musica in Italia rispecchia quello che sta avvenendo in generale nella società, Marina. È un anno che rompe. Sì, un anno di cambiamenti. A proposito di cambiamenti, la voglia di divertimento fa aumentare del 150% gli introiti della SIAE. Ci sono in giro 15.000 jukebox e vengono venduti quasi 17 milioni di dischi. Un vero boom nella musica. Sì, Marina, perché proprio in quel momento la musica diventa l'elemento catalizzatore del cambiamento della società. Non soltanto, ma nasce l'industria discografica italiana moderna. Ma qual è la colonna sonora di quell'anno in Italia? Beh, di bei pezzi ce ne sono veramente tanti, però nel 1960 quello più venduto di tutti è questo. Una grandissima mina, ma era già conosciuta nel 60? Era conosciuta, molto conosciuta, anche se non era proprio una star di primissima grandezza. Adesso tu hai sentito questo pezzo che conosciamo tutti, dice Madonna, sì, che bellissima canzone. Ma non è stata mica così semplice la stesura di questa canzone. Sai perché? Perché dunque Mogol, che già era un autore conosciuto, però non era il Mogol che conosciamo oggi, scrive questa canzone insieme a Gino Paoli. Gino Paoli era talmente sconosciuto che non era neanche iscritto alla SIAE. Ecco, la fanno sentire a Mina. Mina dice: guarda, questa cosa non mi piace, non la canto. Allora così, loro vanno da Yula De Palma, vanno da Miranda Martino, che insomma all'epoca erano delle cantanti molto più conosciute di Mina, e dicono: abbiamo delle canzoni, queste non la vogliono cantare neanche loro. Beh, un giorno Gino Paoli è nella PDU, nell'ufficio della casa discografica che ha dato i Natali a Mina, e la incontra, prende, sta lì, c'è un pianoforte, si mette lì e gliela fa ascoltare. Guarda, c'è questo pezzo, ancora questo pezzo, non lo voglio cantare, non mi piace. Sarà impuntata. Però, come succede raramente nell'industria discografica, un discografico illuminato era lì e dice: ma questa è una canzone meravigliosa, Mina la devi assolutamente cantare, e gliela imposero, e poi risultò il brano più venduto addirittura dell'anno. Del 1960. Esatto. Comunque Mina nel 1960, almeno a livello di notorietà, era famosa, tant'è vero che quell'anno partecipò al Festival di Sanremo con una canzone molto bella che si intitola È vero. Però non ve la facciamo ascoltare nella sua versione, ma in quella di Teddy Reno. È vero, è vero, è vero, è vero. Esistono gli angeli. È vero amore, è vero, io credo in miracoli. Ognuno mi stende la mano, ognuno mi offre una rosa. Le strade, la folla, ogni cosa è bella con te. È vero amore, è vero, mi sento rivivere. Quindi Franco Schipani, per partecipare al Festival di Sanremo all'epoca bisognava già essere famosi. Beh, non è che al festival ci andassero proprio tutti, perché è un appuntamento importante. Quindi se partecipavi al festival comunque ce l'avevi fatta, ecco, avevi raggiunto già un gradino molto importante della tua carriera. Roma, 25 agosto 1960. La lancetta dell'orologio nazionale segna finalmente l'ora delle Olimpiadi. Il fuoco sacro. Eh sì, a Roma è proprio l'ora delle Olimpiadi. Il 1960 si svolgono le Olimpiadi di Roma con due indimenticabili ori: Nino Benvenuti, che diventa una leggenda del pugilato, e Livio Berruti, che vince nei 200 metri. Sono partiti, avvio bellissimo di Berruti e urlo unico del pubblico. Berruti attacca in testa gli ultimi 60 metri, poi cavalca al largo. Berruti avanza irresistibile verso la vittoria. A 10 metri, a 5, ha vinto Berruti! Ha vinto Berruti! Secondo Carney, Livio Berruti ha conquistato la medaglia d'oro per l'Italia! Il fatto è che tu possiedi personalità, una personalità dolce personalità, guardi personalità, ridi personalità, baci personalità. Per questo e questa è Caterina Valente con Personalità. Come mai questo pezzo? Perché, cara Marina, non soltanto nello sport ma anche nella musica i nostri cantanti e i nostri autori nel 1960 hanno personalità da vendere. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, da una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonava, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il suo cuore? La gatta di Gino Paoli e Rocco Granata con Marina. Allora Marina, dimmi quanto odi questa canzone. Penso che mi è venuto lo stesso mal di pancia di quando me la cantava. No, ovviamente la odio, cioè. Ma c'è un motivo particolare o proprio perché... Pensa, tu dici come ti chiami? Marina, tac, iniziano a cantare, io diventavo rossa, cioè è proprio un disastro. È un disastro, ok. Marina, Marina, Marina. E il 1960 è un anno importante per il nostro paese. L'Italia cresce, attenzione, cresce. Siamo quasi all'8%. È il miracolo economico italiano. La lira vince l'Oscar per la moneta più stabile, grazie al governatore della Banca d'Italia Donato Menichella. Gli italiani sono 50 milioni e iniziano a spendere di più, comprano la loro prima macchina, oltre la macchina ovviamente il televisore, e quell'anno in Italia ne vengono venduti 500.000. Ma tornando al Festival di Sanremo, che è una delle tappe fondamentali di questo nostro viaggio nella musica e nella storia, che edizione fu quella del 60, Franco Schipani? Fu una edizione importante perché, oltre a consacrare i, diciamo, i big del momento, ebbe anche il merito per la prima volta di lanciare dei giovani talenti. È mezzanotte, diamoci un bacio e ritorniamo passo passo verso casa. Io t'accompagno, tu m'accompagni, mentre le stelle ci stanno a guardare senza parlare. È mezzanotte, quasi per tutti, ma il nostro cielo è chiaro. Ma chi è? È Gio Sentieri, carissima Marina, Gio Sentieri, il sarebbe? Mitico Gio Sentieri. Beh, Lui è un musicista molto, molto bravo, nel senso che uno che ha studiato, ha fatto il conservatorio, insomma è uno punto contrappunto, cioè non è uno. Ah, poi ha cominciato a cantare, diciamo, nelle balere, nei locali, e poi a un certo punto si è imbarcato su una nave dove lui faceva quello che facevano moltissimi all'epoca, cioè cantava durante le crociere. Ecco, un giorno, mentre lui era in una di queste crociere, stava cantando e stava esibendo, e che succede? Che la barca così si mosse troppo rapidamente. Allora lui, che aveva il microfono in mano e l'asta, per non cadere, fece un saltello per rimanere in equilibrio. La gente sorrise, gli piacque quella cosa. E allora Giosentieri disse: ma questa cosa funziona, quindi da quel momento in poi non ha importanza se era Sanremo dovunque, faceva alla fine il saltino finale, ed era il saltino di Giosentieri, quindi Gio Saltino praticamente. Mi dicevi del festival, del Festival di Sanremo. Sì, il Festival di Sanremo, dunque, in quel momento è un festival, diciamo, importante, sta cambiando qualcosa, perché sta cominciando a uscire proprio, diciamo, dagli schemi, no? Che cosa si è capito in quel momento? Che il festival non era soltanto un mezzo per portare la gente al casinò che andava a giocare e poi gli davano il bonus del cantante. Stava diventando un evento importante a livello mediatico, quindi la televisione è cominciata a diventare importante. Ed è proprio grazie a questo cambiamento che molti cantanti, come Giosentieri sconosciuti, ebbero il modo di farsi apprezzare. Accanto a te splende il sole, accanto a te c'è l'amore, che mille favole nel mondo han già narrato, e nei miei sogni ho immaginato. Senti che belle atmosfere, ecco perché poi le grandi orchestre americane si prendevano questi brani e li orchestravano, li portavano un po' in giro per tutto il mondo. Era un po', insomma, il nostro trademark, era la nostra melodia. Questo era Fausto Cigliano con un brano molto bello che si intitola Splende il sole. Hai detto televisione, e la RAI nel 1960 lancia dei programmi storici. Il primo è... L'avete riconosciuta, è la sigla di Tutto il calcio minuto per minuto, condotto da Niccolò Carosio e Enrico Ameri. E dopo il calcio, altra passione degli italiani, la politica. Nasce Tribuna Politica, voluta da Fanfani, ed è il primo programma politico dove finalmente quindi i nostri governanti hanno l'occasione di far vedere le loro facce sul piccolo schermo in TV ed entrano nelle case degli italiani. Altro che talk show, perché qui si arrivava, si parlava uno alla volta. Ma io ti dico, una volta, ricordo, ero ancora abbastanza piccolo, però vidi uno di questi dibattiti, e mi ricordo che un politico, credo che fosse proprio Almirante, a un certo punto, parlando con un suo avversario politico, non nemico, gli disse: guardi che lei è ignorante. Come, io sono ignorante? No, un momento, da ignorare, lei ignora questa, cioè una parola in un talk show ha dato, cioè, dell'ignorante. Oggi come oggi la parola ignorante in un talk show di oggi sarebbe come proprio acqua e sapone, capito? Ma sarebbe completamente inosservata. All'epoca fu un caso. In un paese dove in quel momento la Democrazia Cristiana è al 40%, il Partito Comunista è al 24,5%, Partito Socialista Italiano 14% e il Movimento Sociale Italiano al 6%. Altro programma storico, Non è mai troppo tardi, del mitico maestro Manzi, che insegnava a leggere e scrivere agli analfabeti in Italia che ancora ce n'erano, un po' come se oggi la RAI facesse un programma di alfabetizzazione digitale. Mix 24. Storia e musica negli anni 60 e 70. Piace questa, cuore, amore. Hai visto, romantica. Il maestro Manzi alfabetizzava in televisione con Non è mai troppo tardi. Invece la nostra Flo Sandoz, A come amore, A come amore, B come batticuore, C come cuore, eccetera. Vedi che alfabetizzava anche a nome suo, cioè al modo suo, gli ascoltatori, quelli della musica leggera. Ma chi presentava quell'anno il Festival di Sanremo? Beh, lo presentavano due nomi, due volti conosciutissimi agli italiani per vari altri motivi, che erano appunto Enza Sampo e Paolo Ferrari. Cosa più importante è che quell'anno per la prima volta il management di Sanremo prende un organizzatore professionista, Ezio Radaelli, ha capito quanto importante sia diventato l'evento. Il festival, dice, allora bisogna prendere un organizzatore professionista. Lui comincia subito a darsi da fare, fa un ottimo lavoro e pensa che si permette il lusso nella giuria, sai, quella che giudica i brani di qualità eccetera, di prendere chi? Totò. Ma ti rendi conto? Totò. Grande Totò, come c'era finito Totò alla giuria del festival? Ma secondo me, guarda, c'è entrato per caso. Allora, innanzitutto Totò, a parte essere in quel momento uno dei grossissimi nomi da botteghino, sappiamo benissimo che era anche un autore di canzoni molto famose e scriveva anche delle poesie meravigliose, quindi... Cioè, diciamo che la ci scelta stava ci stava assolutamente. Poi sai, Totò, già il fatto che era c'era lì, Totò, era l'ospite, era già una notizia, capito? E chi lo vince quell'anno il festival? Lo vince una canzone romantica. Tu sei romantica, amarti un po' di vivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Hai capito? Questo è Tony Dallara, che si chiamava pure il brano, era Romantica. Un bel pezzo melodico, diciamo. Sì, è melodico, però la cosa che devi considerare è che nonostante questa canzone si intitoli Romantica e tu dici che è un pezzo melodico, ecco, Tony Dallara invece era considerato dalla critica e dal pubblico un urlatore. Urlatore, cioè? What? Dunque, è un genere che in quel momento in Italia stava veramente prendendo piede. C'erano urlano. Alcuni che non cantavano soltanto in modo, diciamo, melodico. Ti faccio ascoltare un brano. Mai, mai, mai più. Celentano, lo conosco anch'io. Ah, l'hai riconosciuto. Dallara no, ma Celentano sì, ovvio, perché è ancora in attività, cara Marina. Beh, anche perché è un grandissimo, diciamolo. Sì, comunque Celentano è quello che è considerato da tutti il capostipite degli urlatori italiani. Sai che urlatore viene dalla parola shouter, che veniva appunto dall'America. E da un punto di vista musicale, quindi a parte l'urlo, raccoglieva quella che era la tradizione tra il boogie boogie e il rhythm and blues. Però sai, quel rhythm and blues è un po' più tosto. Per me stai parlando ostrogoto. Ho capito, quindi non stai capendo niente di quello che ti sto dicendo. E allora te lo spiego in musica. Get out of that bed, wash your face and hands. Get out of that bed, wash your face and hands. Big Joe Turner, Shake, Rattle and Roll. Questo è un urlatore, oh. Cara Marina, come urlo io, vedi? Quindi, e come arriva però questo straniero? Come arriva in Italia questa moda? Allora, come arriva? Allora, urlatore, urlo, quindi volume, quindi caciara, come direbbero a Roma, no? Come può arrivare? Mica da quei piccoli autoparlanti che c'avevi a casa, quei piccoli mono, quelle cose. Arrivano in spiaggia con i jukebox. Hai detto, cioè, migliaia di jukebox ormai distribuiti strategicamente in ogni spiaggia d'Italia. E allora loro erano lì davanti a questi jukebox a urlare, ma non soltanto quelli che cantavano, anche quelli che ascoltavano erano lì davanti. Si urlava in quel 1960 si urlava in Italia. Ma cosa urlavano questi shouter? Ma secondo te, scusa, è importante quello che si urla? Basta un pochino urlare. Ah, quindi, diciamo che l'urlo in quel momento aveva una funzione liberatoria. Sì, era l'anno perché... del boom, iniziava a essere spensierata. Ma sì, ti volevi liberare, ti volevi divertire, capito? E quindi benvenuti agli urlatori. E Adriano Celentano è il primo di questa moda? Diciamo che è quello più conosciuto in assoluto. Ma Celentano, a parte essere un urlatore, a parte cantare in un certo modo, eccetera, era importante perché aveva un modo di comportarsi, un modo, diciamo, di presentarsi che era completamente inedito. Cioè Celentano, io mi ricordo che quell'estate, se tu non avevi i pantaloni bicolori con le tasche alla carrettiera, è inutile che uscivi. Non eri nessuno. Non eri assolutamente nessuno. Quindi lui aveva questo atteggiamento. Cioè, uno che si presenta, scusa, al Festival di Sanremo, che di solito tutto pulitino, sai, con l'orchestra, tutti con lo smoking, sì. Lui si presenta di spalle, prende un microfono, fa un salto e poi improvvisa e guarda la telecamera. Ma trasgressivo come pochi. Ma vuoi dirmi che Celentano comincia ad urlare nel 1960? Eh no, mia cara, Celentano aveva preso la rincorsa già prima. Io son ribelle, non mi piace questo mondo che non vuole la fantasia. Io son ribelle nel vestire, nel pensare, nell'amar la bimba mia. Eccolo, questo è un brano dell'anno prima, visto, ha preso la rincorsa Celentano con questo brano, Il Ribelle. E Fernando Tambroni forma un governo monocolore democristiano con l'appoggio decisivo del Movimento Sociale Italiano. E i Missini, allora fece un po' parlare questa cosa, i Missini, presi dall'entusiasmo, non trovano di meglio da fare che organizzare un congresso a Genova, la città rossa per eccellenza. Quindi da lì proteste che si diffondono in tutta Italia e insieme con Celentano, diciamo, si inizia a protestare. Sì, si inizia a protestare, però guarda, Celentano ha cominciato a protestare prendendo quello che era il ribelle per antonomasia negli Stati Uniti, e cioè Elvis, capito Marina? Il mitico Elvis. Il mitico Elvis. Quindi va lì e lo copia Elvis, lo possiamo dire. Celentano, guarda, è partito così, da, diciamo, a livello organizzativo ha copiato Frank Sinatra e il suo clan. Infatti anni dopo farà la sua etichetta che si chiama appunto Il Clan. La mimica facciale era quella dell'attore comico Jerry Lewis, ah. E invece le movenze sul palcoscenico erano sue. No, quelli erano proprio di Elvis. Elvis the Pelvis, Elvis il bacino. Sai perché lo chiamavano il bacino? Perché la televisione americana aveva ordine tassativo ed assoluto di non inquadrare Elvis dalla cintola in giù, perché era pornografico. Anche in America censuravano, quindi. Censuravano anche in America in quel momento, sì Marina. E il pubblico di Celentano in quel 1960 qual era? Chi erano? Soprattutto i giovani, ovvio. Ma i giovani. Ne parliamo dopo la pubblicità. Giuseppe Cruciani. Cruciani, datti una calmata, dai. David Parenzo. Certo che di cazzate Parenzo ne dice tante. La Zanzara. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Tutti i giorni alle 18:30, solo su Radio 24. Questo non credo. Mix 24. Storia e musica negli anni 60 e 70. Ben trovati su Mix 24 Estate, sono Marina Milone in compagnia di Franco Schipani. Eccoci Marina, siamo qui. E siamo nel 1960, stiamo viaggiando in quell'anno attraverso la musica. In quell'anno il Papa è Giovanni XXIII, il Papa buono, e siamo già in guerra fredda. Il Presidente della Repubblica è Giovanni Gronchi, senti questi nomi, un po' antichi sembra, che va in Unione Sovietica per un tentativo di distensione con quel mondo. E ad organizzare il viaggio è un certo Enrico Mattei, che anche lui è in Unione Sovietica con un obiettivo ben preciso: scavalcare le famose sette sorelle, le compagnie americane petrolifere, per l'approvvigionamento del petrolio, e ci riesce e torna a casa con un accordo importante di cui è fiero e consapevole. Una lotta terribile, senza esclusione di colpi. Io ho visto insieme d'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. Noi siamo dei poveri, abbiamo bisogno di lavorare e non possiamo più andare all'estero come dei poveri emigranti che non hanno nessun'altra forza che le proprie braccia. Noi vogliamo andare anche noi come imprenditori, con l'assistenza tecnica e con tutto quello che un paese moderno come il nostro oggi può dare. Io l'anno scorso, nel mese di dicembre, fui chiamato a incontrarmi con uno dei sette grandi, uno dei più grandi. Hanno un bilancio che è quasi pari al bilancio dello Stato italiano, di queste compagnie, a Monte Carlo, dove mi chiamò. Tutta la collaborazione riguardava l'Italia. Tenere su più i prezzi, guadagniamo tutti di più. È proprio il contrario di quello che devo fare io, che sono l'esponente dell'azienda dello Stato. Devo cercare di portare al consumatore tutto quello che è possibile. E io gli dissi, ma in Italia, dico, sa, io credo che avete finito di fare una politica vostra, che da adesso in avanti la faremo noi. Mi disse, che cosa vuol fare in Tunisia? Ma dico, in Tunisia noi vogliamo costruire una raffineria. Dice, voi non farete la raffineria, perché la faremo noi. Noi con una delle altre grandi società del cartello insieme, di un'altra delle sette sorelle. E gli dissi, molto umilmente gli chiesi, cosa ne pensa se invece di farli in due, se si facesse in tre? Disse, no. E allora io, a questo momento, tirai fuori dalla tasca la matita, avevo altri argomenti da discutere. Lo guardai, li cancellai e gli dissi, io ho l'impressione che non abbiamo più niente da dirci, però dico, lei il colloquio di oggi se lo ricorderà per tutta la vita. Parole pazzesche di Enrico Mattei, fortissime, un vero visionario, geniale quest'uomo. Senti come parla, sembra un attore, ma non è un attore, no. È uno vero. Esatto, anno strepitoso il 1960 per il nostro cinema. Escono i capolavori come Rocco e i suoi fratelli di Visconti, La ciociara di De Sica e soprattutto... È l'anno della dolce vita di Fellini, con la colonna sonora di Nino Rota, film considerato scandaloso per la Chiesa Cattolica. Tuoni e fulmini, tuoni e fulmini! Il ministro dello spettacolo Umberto Tupini definì il film con soggetti scandalosi e morbosi, ritenuti deleteri per la formazione della coscienza civile degli italiani. Marcello, come here! Hurry up! Sì, sì. Vengo anch'io. Vengo anch'io. Scandalo, scandalo. Scandalo. Questo Tupini era l'unico che non si voleva divertire in Italia in quel momento, da quello che ho capito. Comunque. Sbanca i botteghini. Sbanca i botteghini perché la Chiesa poi gli ha fatto pubblicità. Perché immagino, non andate a vedere La dolce vita, è proibito perché è scandaloso. Dice, gli hanno fatto pubblicità. Ma sicuramente, dicono di noi, andiamo a vederlo subito. Immediatamente, code di file davanti ai cinema a vedere La dolce vita, ma non soltanto in Italia, anche all'estero. E comunque vince la Palma d'Oro a Cannes. È che non è poco. Quanto vincevamo una volta, Marina, vincevamo tutto noi. Nel mondo, John Fitzgerald Kennedy, a soli 43 anni, diventa il 35esimo presidente degli Stati Uniti. È l'anno in cui Cuba rompe con gli americani e sigla degli accordi politici e commerciali con l'impero sovietico, con l'Unione Sovietica. È stato definito anche l'anno dell'Africa, il 1960, perché ben 17 ex colonie diventano indipendenti. Franco Schipani, ma se ti chiedessi tre cose, tre eventi importanti per la musica in quel momento. Guarda, innanzitutto penso al matrimonio di Sammy Davis Jr., che era un cantante, ballerino, attore molto famoso negli Stati Uniti di colore, che faceva anche parte del clan di Sinatra, quindi uno, insomma, con le spalle belle grosse, toste, come si direbbe oggi. Che cosa fa? Sposa May Britt. Hey, Brit è svedese, è bianca. Non scandalo si può. Anche in America. Negli Stati all'epoca. Uniti, in 31 stati degli Stati Uniti, questi matrimoni misti sono fuori legge. E poi al numero 2, assolutamente, i Beatles per la prima volta firmano un pezzo di carta, che è una specie di contratto firmato, non so, dietro il conto di un ristorante, con il nome The Beatles. E suonano già qualcosa di famoso nel 1960? Marina, io sono sicuro che conosci molti pezzi dei Beatles, però questo pezzo del 60 sicuramente non lo conosci. Hello little girl. Every day I say, hello. Hai capito? Questa era Hello Little Girl, ciao piccola ragazza, dei Beatles, 1960. E il terzo evento importante di quell'anno? Elvis Presley. Ricordate che in America ci sono due cose che non ti perdona nessuno: uno, non paghi le tasse; due, se ti chiama il governo per andare a fare il tuo dovere di militare, ci devi andare. Puoi essere Muhammad Ali, Cassius Clay o ti chiami Elvis Presley, tu devi partire. Quindi Elvis parte, lascia il suo, immagina, questo è al top delle classifiche con le Cadillac fuori casa, manipoli di fena adoranti in tutto deve il mondo. Partire. Parte, va a fermare e va in Germania. Quindi seguitissimo dai fotografi, immagina. Conosce una diciassettenne che si chiama Priscilla Presley, che era la figlia di un pilota di caccia dell'esercito americano, col quale intraprende un po' una relazione, seguitissima ovviamente dalla stampa. Attenzione, perché questo Elvis Presley, che tutti pensiamo re del rock and roll, uno faceva uno eccetera, prima di sposare la signorina Priscilla Presley ci ha messo 8 anni. Cioè, 8 anni di fidanzamento. 8 anni di fidanzamento. Oggi la gente in 8 anni si sposa 3 volte, cara Marina. Comunque lui faceva il militare, un giorno ascolta la radio e sente una canzone. Che cosa fa? La traduce in inglese. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Strepitoso. Sei napoletana, questa la conosci. Oh, sole mio. It's now or never, Elvis Presley. E quindi torna in America con questa canzone che copia da noi? Lui è stato, guarda, veramente in gamba, perché lui finisce il militare, ritorna in patria con i capelli corti, da bravo ragazzo. Deve ritornare subito a incidere dischi. Allora che cosa fa? Invece che ritornare rock and roll, le cose, mettere l'elettricità, dice: io torno e faccio una canzone melodica, così vado a catturare, vado a intercettare il pubblico che non avevo prima. Infatti questo It's Now or Never, o Sole Mio, arriva primo in classifica e lo comprano sia i suoi vecchi fans, che le mamme delle vecchie fans, che le nonne dei vecchi fans. Arriva secondo anche in Italia, Marina. Beh, più successo di così non si può. Cioè, torna e cambia pubblico. Diciamo che inizia un secondo capitolo della sua carriera con questa mossa molto molto intelligente. Però aspetta un attimo, ti voglio far sentire un'altra cosa. No arms will ever hold you like these arms of mine. No heart will ever love. Che cos'è? Che cos'è? Beh, guarda, questa volta ti scuso. Dovresti saperla, ma secondo me la riconosci dopo. Comunque, il brano è di Pat Boone, che è stato scritto addirittura nel 1955, quindi ormai era passato quasi così nel dimenticatoio. Però un artista italiano lo sente e dice: ma sai che c'è? Secondo me questo pezzo funziona anche in Italia. Mai più nessuno al mondo t'amerà così, perché nessuno al mondo soffrirà così. E Peppino Di Capri, un altro napoletano che domina. Madonna, ma sei ferratissima sui napoletani, Marina, brava. Sono grande fan di Peppino Di Capri, lo confesso. Vabbè, questo è buono, Peppino Di Capri è buono, perché veramente, sai che Peppino Di Capri era talmente famoso all'epoca che il suo barbiere si vendeva i capelli, non so se mai capito, cioè altro che i Beatles. Io lo conosco, poi conosco anche i figli, vabbè, ma queste... Vabbè, questo è gossip, questo è gossip. Comunque lui ha preso questa canzone, l'ha fatta proprio sua, tant'è vero che arriva in classifica in Italia, ma poi Pat Boone la riprende, la riporta in classifica in America, ormai non ci sperava più nessuno, e ritorna in classifica in America, cara Marina. Quindi è tutto un po' un copiare, se ho capito bene. È un processo osmotico, che è un parolone, però hai capito, niente si crea, niente si distrugge. Hanno fatto veramente un bel lavoro di promozione e di scambio culturale. e di scambi culturali ne parliamo dopo la viabilità. Mix 24. Storia e musica negli anni 60 e 70. Bentrovati, oggi è la prima tappa del viaggio nella storia e nella musica degli anni 60. Siete con Marina Milone e Franco Schipani. Eccoci Marina. Nel 1960. Franco, mi dicevi di questa contaminazione di influenze tra i continenti che arriva la musica da una parte, poi dall'altra, chi copia? Ma guarda, è molto semplice. Noi eravamo in pieno periodo ricostruzione dopo la guerra. E erano rimasti qui soldati americani nel loro zaino, a parte le sigarette, cioccolati, Coca-Cola, le cose che mangiavano, eccetera, avevano anche dei bellissimi dischi di swing che facevano circolare liberamente. La gente cominciava a sentire questa musica. Lo swing è stato poi assorbito dalla canzonetta anche melodica o comunque tradizionale italiana, e si è trasformato in, senti un po', veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto, eri piccola, piccola, piccola, così. Beh, Fred Buscaglione, eri piccolo, madonna che figo. Già, ti ricordi com'era vestito? Elegantissimo, cool, come direbbero gli americani. Stupendo. Sì, assolutamente. Ma noi italiani siamo stati influenzati soltanto dalla cultura anglosassone? Beh, diciamo che l'impatto è stato importante, è stato grosso, perché insomma la guerra, la ricostruzione, gli americani, insomma tutta una serie di battaglie, cioè una cosa importante. Veniva da lì. Però gli italiani, specialmente in quel periodo, cominciarono a guardarsi intorno. Avevano come punto di riferimento anche la cultura dei loro cugini, diciamo, dell'area mediterranea e quelli sudamericani. C'erano molti italiani già in Sud America. E guarda cosa è uscito fuori da questa contaminazione. Stanotte quanti baci amor, uno a te, due a me, finché l'alba non verrà. Stanotte quanti abbracci ancora, uno a te, due a me, sembra un sogno ma è realtà. Nel cielo quante stelle d'oro, uno a te, due a me, finché l'alba non verrà. La luna incendia i nostri cuori, mezza a te, mezza a me, sembra un sogno ma è realtà. Piaf con Milord, poi cia cia cia della segretaria di Michelino, Mustafa di Staiffi e uno a te, uno a me, con quest'aria un po' melodica greca, cantata dalla splendida Dalida. Beh, un po' pazzo questo 1960, c'è cioè un po' di tutto alla fine. Eh sì, un po' di tutto, un bel po' di varietà, dai Marina. Ma alla fine di questa puntata, Franco Schipani, se dovessi sintetizzare cosa è successo nel mondo della musica nel 1960? Guarda, l'Italia era uscita fuori dalla guerra, aveva cominciato a ricostruire, la gente voleva divertirsi, ma sì, già voleva, c'era questo desiderio di divertirsi, c'era questo desiderio di cercare cose nuove, e anche nella musica, che in quel momento è veramente, ma veramente, diciamo, importante. Quindi la gente ormai non è che si sposta soltanto per immigrare, si sposta anche per viaggiare, per andare in vacanza, si mettono davanti a jukebox in spiaggia e, diciamo, e cantano, ci sono le canzoni popolari. Queste canzoni popolari, fra l'altro, non hanno barriere, cioè sono canzoni che si cantano a Trento e a Cefalù, cioè le cantano veramente tutti, cioè uniscono veramente il popolo italiano. E c'è un senso di liberazione nei confronti della musica, innanzitutto, ma anche nei confronti dei testi, perché ci sono dei testi che soltanto 5-6 anni prima nessuno si sarebbe sognato di cantare. Tintarella di luna. Con Tintarella di luna e una zebra poa, e poi Domenico Modugno, meglio conosciuto nel mondo come Mr. Volare, con Libero. Pensa che Domenico Modugno, quando cantò questa canzone a Sanremo, chiese il permesso, dice: io ho un'idea meravigliosa, mi metto una casacca da carcerato, la voglio cantare così. Dico: guarda, la rivoluzione inizia, però insomma, un attimino calmo, perché è una cosa via. Che c'è assolutamente, non si può fare, signor Volare. Beh, la rivoluzione non è ancora scoppiata, ma siamo sulla buona strada e continuiamo a raccontarla nella prossima puntata con Franco Schipani. Appuntamento al 1961. Allora, mia cara, sì, nel 61, però c'è stato un piccolo diverbio su come finire questa puntata del 1960. Guarda, annunciala. Sulla scelta della canzone. Annunciala tu, per favore. A me la canzone piace molto. La canzone dire. È Volare. E la canta Gianna Nannini. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo la faccia e le mani di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo. Ciao, a domani con il 1961. Ciao Marina, ci vediamo domani, ciao. Su Mix 24 Estate. Dolce suonava soltanto per me. Mentre il mondo pian piano scompare vicino a c'è una musica dolce che suona per me.